Radio Azione. Frequenze di azioni in diretta. Radio Azione. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radio Azione.blogs.org. Thank you. L'azione repressiva è stata annunciata in grande stile. Passaggiando per la città si possono guardare a ripetizione, attraverso le TV che sono dietro le vetrine dei negozi, i TG che mandano i servizi sul Natale nero. Attraverso delle casse acustiche viene trasmesso anche l'audio, il loop del discorso dei tre uomini del potere statale. La città è piena di posti di blocco dei Tarspok. Le loro auto si muovono molto lentamente di fianco ai marciapiedi, scannerizzando uno ad uno gli zombie che vagano con aria indifferente. Ogni auto percorre avanti e indietro una determinata strada. Si respira una certa aria strana, ed anche volendo essere indifferenti non si può far finta che tutto sia normale, perché di fatto non lo è. Un così alto numero di Tarspok per le strade della città non c'era mai stato, ed anche il loro atteggiamento verso gli zombie sembra molto diverso. Hanno sempre terrorizzato gli zombie attraverso la minaccia di sequestrarli a galera nel caso avessero minimamente infranto le regole, ma questa volta gli sguardi degli uomini topo sembrano raffiche di mitra sugli zombie. Dietro ogni zombie, per loro, potrebbe nascondersi un probabile refrattarios. Ma gli stessi refrattarios si tengono ben lontani dalle strade in questo delicato momento e, confondendosi tra gli zombie, escono dai loro rifugi giusto per incontrarsi tra di loro e cercare di capire come evitare questa imminente operazione repressiva. Sanno benissimo che questa volta non sarà come le altre, in cui vi erano state solo delle perquisizioni nelle case, sedi ed altri luoghi di ritrovo. Questa volta la repressione non guarderà in faccia a nessuno e cercherà di rinchiudere nelle fogne di galera gran parte di refrattarios, anche perché Lerit e Navig, come due vampiri assetati di sangue, attendono alla finestra che le vittime vadano a dormire per colpirle nel sonno. La decisione deve essere presa presto, perché qualsiasi momento potrebbe essere letale per i refrattarios, e già è trascorsa una settimana dagli attacchi. La sera del 30 dicembre si ritrovano in uno dei tunnel scavati durante la Seconda Guerra Mondiale per permettere alla popolazione di rifugiarsi dagli attacchi aerei dei tedeschi. I refrattarios ci sono tutti, a prescindere dalle loro diverse idee. Una vera bufera di vento e pioggia si abbatte sulla Nazero 013, ma questo aiuta molto gli stessi refrattarios, perché i Tarspok non hanno tanta voglia di perlustrare le zone con quel tempo. Il luogo è già scuro di per sé durante la notte, perché si trova all'interno di un bosco, e si sa benissimo che i Tarspok non amano tanto infilarsi tra boschi e montagne se non sono in gran numero. L'oscurità è molto pericolosa ed un attacco lo potrebbero subire in qualsiasi istante, anche perché tra l'altro i refrattarios non sono i loro unici nemici. Anche tra gli zombie c'è chi vuole fargliela pagare, in un modo o in un altro, per qualche motivo. È quasi mezzanotte e l'incontro tra i refrattarios va avanti già da 3 ore. Ci sono varie soluzioni, ma per ognuna di esse c'è sempre qualche refrattario contrario, e di solito i pochi. È quasi una settimana che questi incontri vanno avanti, e questo è il terzo che avviene nello stesso luogo, a differenza degli altri, in cui si evitava di ritornarci per non rischiare di essere stati visti da qualcuno. Il luogo sembra sicuro, e qualcuno propone anche di rintanarsi nel tunnel fino a quando non si calmino un pochino le acque. Ma qualcun altro fa giustamente notare che non mi sembra il caso di rintanarsi, perché prima o poi, anche per vedere un po' di luce naturale, bisognerebbe uscire fuori, e quindi si rischierebbe di essere notati, perché il bosco è frequentato dagli zombie durante il giorno. Inoltre, nel caso i Tarspok lo scoprissero, ci metterebbero pochi istanti, chiudendo le due entrate del tunnel, a fare eruzione e arrestare tutti. Uno dei refrattarius, di solito molto taciturno, ad un certo punto si alza e dice: il tunnel è pericoloso, è vero, ma il luogo dove si trova non lo è. Bisogna cercare un luogo simile, ma non un tunnel. Un luogo che ci permette di nasconderci, ma allo stesso momento di poter stare anche all'aria aperta e di muoverci, ovviamente con la dovuta cautela. Un luogo che ci permetta di avvistare possibili arrivi dei Tarspok e darci la possibilità della fuga invisibile. Una montagna, in poche parole. Il Vesuvio. Questa era Annie Clark con il brano Nothing Going On, dopo la lettura di Nazero 13, che ha aperto, come tutti i lunedì, apre la diretta d'azione in cui ci sono controinformazione, sì, ma soprattutto lettura. Ricordo che stiamo leggendo Tortuga di Valerio Evangelisti, libro che segue a quello che abbiamo appena finito di leggere due settimane fa, e cioè Veracruz, così portiamo un attimo a termine anche quella che è la trilogia sui pirati di Valerio Evangelisti, che, lo ripeto, scrive libri e non scrive le sue idee. Nell'ultimo libro forse qualche idea c'è, ma noi non lo leggeremo, quindi a noi ci interessa la storia dei pirati. La storia dei pirati che praticamente, anche leggendo i libri di Valerio Evangelisti, alla fine si può vedere anche le fonti da dove lui ha attinto certe informazioni, poi trasformandole ovviamente in un romanzo. Quindi c'è una bella ricerca pure sui pirati da parte dell'autore del libro. Allora, ricordo quindi che Radiazione già da venerdì scorsa non trasmette più su Listen to My Radio, ma trasmette su questo nuovo server. Il nuovo server messo a disposizione ai compagni di Anarchist Library, che saluto. È praticamente il server è anarchia.net. Per voi non cambia un cazzo, perché basta che cliccate sul banner che trovate in home page su Radiazione e ascoltate la radio. A breve ci sarà un'ulteriore novità, non ve lo dico, ma lo saprete presto qual è la novità che riguarda Radiazione. Per ora la controinformazione la potete leggere, quella giornata la potete leggere sul blog di Radiazione, radiazione.noblogs.org, dove potete scaricare anche vari opuscoli, libri, CD, un po' di roba sul... c'è nella sezione download, dove potete anche andarvi a riascoltare le dirette d'azione vecchie attraverso podcast. Questo era il blog. Per la radio invece l'abbiamo detto, cliccate sul banner oppure radiazione.anarchia.net. E questo era per quanto riguarda gli indirizzi utili per Radiazione per oggi. E ora ci ascoltiamo un brano dei Cheapest Way, Boots Mulanic, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. lunedì 27 gennaio 2014, con il nostro passaggio ad un server indipendente e autonomo, avremo dato alcuni dispiaceri, ma a noi è un piacere dare questo tipo di dispiaceri. Ritorniamo alla lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Come è stato ricordato poco prima, noi leggiamo l'opera di un autore, ci interessa soprattutto l'opera, ci interessa come quest'autore ha scritto quest'opera, tutto il resto è noia. E come noi tentiamo di fare nella nostra quotidianità, nel nostro incedere quotidiano, anche i pirati della Tortuga vanno all'arrembaggio. Poco prima di andare all'arrembaggio con loro, vorrei semplicemente ricordare che stiamo seguendo adesso un'altra storia di pirati, che ha come filo narrante le vicende del ex gesuita Rogerio de Campos, che è stato preso, come abbiamo letto lunedì scorso, catturato dopo un arrembaggio a un galeone spagnolo, e arruolato di forza come nostromo a bordo del Neptune, ai comandi di un eroico, diciamola così, comandante della filibusta, che è Lorenzillo al secolo Laurence de Graaf, olandese ma mulatto, con gli occhi azzurri e di capelli biondo ma scuri come la pece. Quindi adesso torniamo all'arrembaggio. Quando fu l'alba, il veliero sconosciuto distava ormai meno di un miglio. Non era affatto un galeone, come era sembrato a causa della poppa alta, somigliava piuttosto ad una fregata dallo scafo tozzo, dipinta di nero e con tre alberi. Certo, doveva aver avvistato da tempo il Neptune, come dimostravano tutte le vele al vento, ma non riusciva a distanziare l'inseguitore. La colpa era certamente del carico. Di solito le navi di quel tipo erano molto più veloci. «Ci scommetterei un occhio che è un legno mercantile inglese», disse Philippe Calloy, ritto sul cassero accanto al capitano. Lorenzillo imprecò: «Siamo finiti fuori rotta per raggiungere una preda inutile e abbiamo solo perso tempo!» «Capitano, in passato abbiamo attaccato navi spagnoli anche senza lettere di mandato, quando Francia e Spagna erano in pace. Ma non possiamo farlo con gli inglesi, porco demonio! Dobbiamo tenerci amici gli avventurieri della Giamaica se vogliamo controllare questi mari. Inoltre, il governatore di Tortuga può chiudere un occhio sugli spagnoli, ma non ci perdonerebbe mai se gli creassimo problemi con il governatore Lynch, che è un suo amico personale.» E Lorenzillo, come era sua abitudine, sputò oltre il bastinaggio e poi gridò furioso: «Dov'è quell'imbecille di un gesuita?» Rogerio stava facendo i propri bisogni, stimolati di certo dal rum della sera prima, nell'anca di prua, a cavalcioni dell'asse apposita, sporgente un poco sul mare e dotata di un buco. L'esclamazione di Lorenzillo lo raggiunse nel momento meno opportuno, ma fu lesto a rimettere i piedi sul paiolo delle briglie di Bonpresso e a rialzare i calzoni. Quando lo ebbe davanti, il capitano puntò l'indice su di lui e gli disse collerico: «Gesuita della malura, ci avrai anche salvati dal vento, però con la tua preghiera non hai saputo garantirci una buona presa. Come me lo spieghi?» Chiaramente non c'era alcuna spiegazione possibile. Rogerio capì che Lorenzillo doveva pur sfogarsi con qualcuno e accettò a testa bassa il tramonto della propria gloria effimera. «Togliti dai piedi, baciapile», concluse il capitano. «Torna al tuo lavoro, con te. Faremo i conti dopo.» In realtà, per il momento, non c'era nessun lavoro particolare da fare, eccetto prepararsi a un combattimento improbabile. L'intera ciurma era impegnata a caricare pistole, ad armare moschetti, a molare il filo delle sciabole e a disporre daghe e pugnali entro le larghe cinture colorate. Lo faceva con svogliatezza, sospettando che fosse in effetti una perdita di tempo. Sul castello di poppa erano apparsi cinque bucanieri con forcelli e archibugi, e con loro Ravenot de Lussan. Lorenzillo si rivolse a quest'ultimo: «Dottore, allora che bandiera consigliate? La fregata è inglese, non è vero?» «È molto probabile, purtroppo. E allora va bene anche la bandiera francese.» «Ma siamo sicuri che Francia e Inghilterra non siano in guerra?» De Lussan si strinse nelle spalle. «E chi può esserne sicuro? Qui le notizie arrivano con 6 mesi di ritardo, sono stati a lungo in pace e immagino che lo siano ancora.» Rogerio intanto aveva raggiunto Le Bon, che stava controllando il focone di un patatero, mentre il mozzo Tapi verificava che le polveri fossero asciutte. Quando vide arrivare il collega, il nostromo gli disse: «Non te la prendere, gesuita, Lorenzini non è davvero in collera con te. Se lo fosse, te ne accorgeresti non dalle parole ma dai fatti. Di, che ne penseresti di un patto di fratellanza? E che sarebbe? Tra noi avventurieri si usa formare coppie in modo che se uno muore l'altro eredita i suoi beni e la sua parte di bottino, ti va? Beh, certo, ma io non possiedo nulla. E mi lascerai un crocefisso. Le Bonghi pose la mano callosa, dura come il cuoio. Appena possibile metteremo il patto per iscritto. Adesso contentiamoci della parola. Tapì, sei testimone, io e il gesuita siamo affratellati. In quel momento la bandiera bianca con i gigli saliva cigolando fino a contropicco, mentre il sole spuntava dissipando le ultime ombre e incendiando il mare. La fregata era a meno di mezzo miglio, issò anch'essa la sua bandiera, che come previsto era quella inglese. «Tieniti pronto», disse Le Bon, «quando saremo alla stessa altezza i due capitani vorranno parlarsi». Rogerio conosceva bene quel tipo di operazione. Le conversazioni tra velieri avvenivano di prua, con le due navi l'una di fronte all'altra. Si trattava dunque di ammainare la maggior parte delle vele, di terzarolare le altre, in modo da prendere il vento di traverso. Poi si virava di poppa. E i comandanti dialogavano da prue che si alzavano e si abbassavano come le teste dei buoi all'abbeveratoio. Mezz'ora più tardi il brigantino e la fregata filavano in parallelo. La nave inglese mostrava adesso tutti i suoi dettagli, a cominciare dal nome dipinto sulla poppa, The Sea Master. Era un bel vascello, malgrado la forma goffa e il pescaggio eccessivo, interamente nero, ma ricco di dorature e con un delfino argentato per polena. L'alberatura era elegante, anche se presentava numerosi segni di riparazioni, evidenti anche a distanza. «Quella nave sarà anche un mercantile, però ha combattuto di recente e non ha potuto fare scalo per sostituire gli alberi», osservò Le Bon. «Del resto mostra 7 cannoni sulla fiancata di tribordo, dunque 14 in tutto. Una buona dotazione. Dubiti che sia un mercantile? No, lo è di sicuro. Una fregata da guerra non avrebbe lo scafo così bombato. Dico solo che quel legno ha viaggiato molto e ha avuto le sue disavventure». Dal castello il primo ufficiale gridò: «Le Bon, vieni qui!» Il nostro uomo disse: «Eccomi, signore», e a Rogerio: «Sì, rallenta. Tu, gesuita, raduna intanto i gabbieri perché si tengano pronti alle manovre». Poco più tardi, sia il Sea Master sia il Neptune riducevano quasi in simultanea la velatura e iniziavano la virata convergente. La nave inglese bracciò a collo la gabbia volante di maestra. Quando si trovarono prua a prua, Lorenzio si portò al buon presso e abbracciò la sua base. Prima però sussurrò all'orecchio a Calloa un ordine che questi sbisbisiò a Le Bon. «Consegna?» circolò sottovoce. «Stare in guardia, tenere pronte le armi e i grappini d'abbordaggio, prepararsi a rialzare le vele, gli uomini alle griselle, i cannonieri ai pezzi». Quando Le Bon comunicò l'ordine, Rogerio restò stupito. «Ma cosa ha in mente il capitano? Assalire gli inglesi?» «No, però Lorenzio è uomo prudente, è per questo che è ancora vivo». Rogerio, che aveva 3 pistole cariche di pendenti dal cinturone, assicurate con nastri facili da sciogliere e una corta sciabola al fianco, si mise al patarero di prua, servito dallo spagnolo Pepe Canseco e dal mozzo Filù. Da lì poté udire il dialogo tra i due capitani. Il comandante della fregata era un uomo corpulento, con parrucca, bastone e una zimarra dai rilucenti bottoni d'oro, e fu il primo a parlare in inglese. «Salve, capitano, sono contento di incontrare l'esponente di una nazione amica. Mi chiamo William Thorne e vengo da Port Royal con un carico di zucchero da portare a Liverpool». L'inglese di Lorenzio era molto migliore del suo spagnolo. «Saluti a voi, signore. L'amicizia tra Re Giacomo e Re Luigi non si spezzerà mai. Sono Jacques Broussolet, mentì, della marina mercantile francese, e vengo da Hispaniola. Stavo scortando un carico di grano, ma una levata di vento improvvisa, un groppo, mi ha separato dall'altra nave e fatto perdere la rotta. Sapete dove ci troviamo? Siamo a sud di Cuba. La latitudine esatta non potrei dirla, perché già da 2 notti il cielo è senza stelle». D'un tratto il capitano inglese cambiò lingua e tonò e disse concitato: «Monsieur, gardez à vous, c'est un piège. Les Espagnols ont capturé ce navire en août en un prisonnier. Délivrez-vous, je vous...» Non poté completare la frase. Alle sue spalle echeggiò un colpo di pistola e l'inglese si abbatté, la faccia in avanti. Nel contempo, dai cannoni girevoli del Sea Master partì una fragorosa scarica di mitraglia. Lorenzio era stato rapido nel ripararsi dietro il Bonpresso, ma l'effetto del nugolo di schegge di metallo fu micidiale. Una decina di pirati cadde spruzzando sangue e contorcendosi, e il trinchetto si incrinò alla base. Da dietro l'impavesata del Seamaster spuntarono decine di fucilieri e sul Neptune altri morirono. La reazione fu però prontissima. Accanto a Rogerio, Pepe aveva avuto il braccio sinistro tranciato di netto e, grottescamente impazzito dal dolore, cercava di raccoglierlo. Rogerio prese lo stoppaccio acceso che Filù gli porgeva e lo accostò al focone del patarero, e anche la nave nemica fu spazzata dalla mitraglia. Intanto i pirati rispondevano al fuoco con i moschetti e salivano veloci le griselle per sottrarsi ad una seconda scarica dei cannoni girevoli. Lorenzillo, sceso con un balzo sul ponte, corse verso il quadrato, saltando morti e feriti, e gridò: «Chi può alzi qualche vela, speroniamo di Mascone!» Non ci fu bisogno che Calloa ripetesse l'ordine. Indifferenti ai colpi che grandinavano, i gabbieri già pronti si affrettarono a obbedire, e in un baleno 5 o 6 vele furono spiegate, il vento le gonfiò e il Neptune prese slancio. Stordito dal fumo, dalle urla, dagli spari, Rogerio assistette trasognato a ciò che seguì. Malgrado la concitazione, qualcuno si era preso la briga di ammainare la bandiera francese e di stare la Jolie Rouge. Davanti al quadrato era apparsa l'orchestrina che ora picchiava freneticamente sui tamburi a ritmo di battaglia. Aveva tutta l'aria di un rituale di guerra. Quando la proa del Neptune sfondò con uno schianto assordante l'anca prodiera del Seamaster e vi si incastrò, la scossa fu tale che Rogerio rischiò di essere sbalzato fuori bordo. E subito echeggiò la voce potente di Lorenzillo: «Fratelli della costa, all'arrembaggio! Vive le roi! Vive le roi!» ripeterono i pirati. «Viva la filibusta, anzi!» E i grappini piovvero ad artigliare il Seamaster. I due uomini, appesi alle sartie, si lanciarono a grappoli sul ponte nemico. Rogerio vide Lorenzillo volare sulla sua testa, appeso ad una cima, e fu invaso da un bisogno incontenibile di combattere, di partecipare a quella festa di sangue. Estrasse la sciabola e corse al Bonpresso spezzato del Neptune e vi si aggrappò con la sinistra e saltò sulla fregata. Un soldato spagnolo gli si precipitò incontro, armato di picca, e un altro puntò una pistola nella sua direzione. Il primo inciampò in un intrico di fasciami e cadde, il secondo fu abbattuto da un proiettile che gli forò la fronte. Rogerio si girò e vide un bucaniere che tirava il fucile della forcella per ricaricarlo. Gli rivolse un cenno di ringraziamento, poi corse verso lo spagnolo che si dibatteva nel sartiame e gli piantò la sciabola nella schiena. questi dopo la prima lettura di Tortuga erano Radio 4 con il brano Enemy Like This. Ora si passa alla controinformazione, la prima notizia di controinformazione della giornata, e si va in Cile dove c'è lo scritto del compagno José Miguel Sánchez Jiménez, il testo che ha per titolo Perché la tua guerra è la mia guerra. I tuoi nemici sono i miei nemici più odiati. Contro di loro puntano i miei attacchi, la mia cospirazione, la pianificazione e la distruzione. Essi, i tuoi nemici, cadranno sotto le schegge dell'emancipazione ribelle. Tu, fratello di lotta, sarai in ogni battaglia, ogni attacco, perché sappiamo chiaramente che la nostra violenza negli attacchi è necessaria. Non dubitiamo sulla sua efficacia e di conseguenza la usiamo contro un nemico implacabile e crudele. Chiunque ci opprime ed ha intenzione di organizzare le nostre vite, contro di loro puntano le nostre armi, il nostro odio, il disprezzo e la nostra lotta. Perché ogni giorno il sistema ci violenta e ci opprime, e non possiamo mettere in discussione l'agire violento dei nostri attacchi. Sempre abbiamo colpito e deciso di passare all'offensiva. Noi colpiamo con forza e in modo efficace, con grande coraggio e determinazione, perché la paura non fa parte di noi, solo la rabbia e l'agitazione di liberazione che invade le nostre vite, nel cumulo di giustizia che si muove il nostro agire, e il sangue dei nostri fratelli caduti nella lotta, il motivo di non finire di lottare e rendere l'azione diretta violenta, il cammino di emancipazione è un'arma efficace contro i nostri nemici dichiarati. Non piangeremo i nostri morti, li dimenticheremo con gli attacchi audaci e precisi. Il seme ribelle darà frutti di emancipazione, frutti pieni di ribellione totale, selvaggia e inarrestabile, ribellione inarrestabile ed assetata di liberazione totale. Non dimentichiamo i nostri caduti, i nostri prigionieri, ancor meno la nostra lotta. Continueremo avanzando ad innalzare l'idea e ad attaccare con la forza lo Stato capitale, le sue icone ed i suoi cani da guardia. Con la mente alla rivolta, fraternamente, José Miguel Sánchez Jiménez, Centro di Esterminio Ex Penitenziaria, Calle 9, 20 gennaio 2014. E questo era lo scritto del compagno Osea, che prendiamo direttamente dal sito di pubblicazione Refrattario, i compagni cileni con cui c'è una sorta di collaborazione per quanto riguarda la controinformazione, scambio di materiale e altre cose, per quanto riguarda siti e blog, ovviamente materiale controinformativo. Qualcuno potrebbe ascoltare, potrebbe capire un cazzo per un altro, come si dice a Napoli, tu cazzo va a banche l'acqua. Quindi materiale informativo, ci scambiamo questo e non altro. Quindi abbiamo letto questo testo, per me è bellissimo, di José, e ora ci ascoltiamo un brano di Block 57 con il brano This Way, e poi dopo si torna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Rogerio, riparato dal barcarizzo che ospitava una delle due scialuppe di bordo del Sea Master, impugnò l'ultima delle sue pistole. Strappò con i denti l'involucro di carta che conteneva la polvere da sparo e la versò nella canna, poi pigiò polvere e palla con il calcatoio. Mirò al soldato spagnolo più vicino, sollevò il cane e premette il grilletto. Le scintille della pietra focaia gli scottarono le dita. L'esplosione fu rumorosa e sprigionò una nuvola di fumo. Il soldato sembrò cadere, ma Rogerio non ne fu sicuro. La caligine nera che aleggiava a spire bruciava gli occhi e ostacolava la vista. Gettò la pistola, come aveva fatto con le altre, e tornò a impugnare la sciabola. L'esito del combattimento era più incerto di quanto si fosse sembrato. Il capitano spagnolo aveva avuto tutto il tempo di organizzare bene i suoi uomini. Due cannoni girevoli sul castello di poppa caricati a chiodi aprivano vuoti tra i pirati. Davanti al quadrato erano disposte tre file di fucilieri e mentre una sparava, le altre due ricaricavano. Dai boccaporti erano state rimosse le biscagline e sotto le aperture erano stati collocati pentoloni di acqua bollente di modo che non era possibile scendere ai ponti inferiori. I soldati con armi bianche e pistole erano attestati attorno al cassero. Indietreggiavano, sì, ma molto lentamente. Tuttavia, era evidente che gli spagnoli erano spaventati. Addestrati alla guerra convenzionale, non erano preparati al modo di combattere dei pirati. Questi saltavano tra le sartie, si aggrappavano ai pendoni, si gettavano avanti con totale indifferenza per la propria incolumità. Alcuni lanciavano urla gutturali improvvisando danze grottesche e infierivano sui cadaveri. Un pirata, di nome Marcel Ruff, visto che un ferito spagnolo che gemeva appoggiato all'albero di trinchetto gli aprì il ventre con una daga, strappò d'un tratto delle budella che fuoriuscivano e lo lanciò verso i nemici. Nel fracasso infernale, scandito dal ritmo ossessivo dei tamburi del Neptune, si udì la voce rabbiosa di Lorenzillo. «Adesso basta scherzare, bucanieri, avete dimenticato come si spara, per Dio! Caloà, fuoco sul quadrato, avanti, avanti la filibusta!» I bucanieri avevano portato i loro fucili sul castello di prua del Sea Master e da lì bersagliarono i moschettieri, scompaginandone le tre file con la precisione del tiro. A ogni sparo un caduto. Quanto agli altri pirati, investirono i difensori del quadrato con tutta la furia di cui erano capaci. Rogerio subì una ferita al braccio, ma quasi non l'avvertì. Invece spaccò la testa di un soldato che aveva perduto l'elmo e tentava di raccoglierlo. L'odore del sangue, che di solito trovava disgustoso, adesso lo inebriava. Vide uno spagnolo corpulento, fermo ad ansimare contro l'impavesata, e si prese il gusto di piantargli una sciabola proprio in mezzo alla pancia. Aveva nella mente l'immagine di una botte che spillasse vino rosso. Renderla reale lo divertì. L'arma migliore rimasta agli spagnoli, cannoni girevoli a quel punto, era inutile. La mischia era fitta e gli artiglieri rischiavano di colpire i loro connazionali. D'altra parte, Calois si era aperto a colpi di spada un corridoio, seguito dallo schiavo di cucina Bamba, armato di un giavellotto incendiario. Dopo una parabola precisa dell'arma, una parte del castello nemico prese fuoco. Quando l'incendio si sviluppò, i cannoncini furono finalmente abbandonati. L'esito del corpo a corpo era scontato. Davanti al quadrato di poppa, su assi che parevano il pavimento di un mattatoio, se ne consumarono gli ultimi guizzi. Lorenzillo era dappertutto, incitava, imprecava, trafiggeva, schiumava. «Fratelli della costa, uccidete questi cani! Avanti, avanti, ammazza la filibusta!» Sul Neptune i tamburi avevano rallentato il ritmo, che era diventato quello solenne di una marcia funebre. Gli spagnoli si difendevano con valore, però era palese che lo facevano più che per convinzione, per il terrore di ciò che sarebbe capitato loro se avessero ceduto. Infine una voce acuta gridò: «Basta, basta, che finisca questo massacro, ci arrendiamo!» Per qualche istante le armi seguitarono a cozzare finché Lorenzillo non si impose ai suoi: «Fermi, miei fidi! La nave è presa!» Rogerio, che stava per uccidere uno spagnolo ruzzolato ai suoi piedi, rimase con la sciabola a mezz'aria. Dalle file dei superstiti uscì un gentiluomo terreo in viso che portava un cappello piumato e indossava un corpetto d'acciaio. Fino a quel momento alcuni ufficiali lo avevano in effetti coperto. I combattenti si scostarono. Il personaggio marciò verso Lorenzio e fece una riverenza, mentre il cappello descriveva un arco elaborato. Poi estrasse la spada e la porse, tenendola con due mani. «Signore, sono il capitano Lope Pacheco de Castro», disse molto emozionato. «Accettate questa spada quale omaggio al vostro valore e quale segno di intercessione per la vita dei miei uomini». Lorenzio, che sudava copiosamente, aveva gli abiti imbrattati di sangue altrui, passò a Calua la sciabola che stringeva, poi fece un inchino esagerato. Quando si rialzò, prese la spada dello spagnolo e disse con punto: «Accetto l'arma che mi offrite nel nome del mio re Luigi XIV di Francia». Soppesò per un attimo la spada, quindi la scagliò fuori bordo, facendola volteggiare. «E la regalo ai pesci, certo più degni di portarla di un codardo farabutto come voi». Tutti i pirati scoppiarono in una gran risata. Lo spagnolo, se possibile, impallidì ulteriormente. Riuscì appena a mormorare: ma, signore!» Lorenzio lo investì con rabbia. «Avete ucciso un capitano inglese vostro prigioniero sparando?» «Beh, io no! Ora ditemi subito dove sono gli altri prigionieri. È l'unica possibilità che avete di salvare la pelle». Don Lope mormorò: «Sono sotto coperta». Le sue parole ebbero una curiosa sottolineatura, perché uno dei cannoni del Seamaster sparò un cavo incastrato in maniera tale da rendere inutile la loro artiglieria. «Le bombe, a vedere cosa diavolo!» Consiglio, il nome rattato di sangue non suo, prese con sé tre uomini e fece per eseguire il comando, ma dal boccaporto più vicino uscirono mani, uomo che si sissò in coperta, e lo seguirono altri, tra i quali alcuni portavano il classico cappello tondo della marina militare britannica e i restanti l'uniforme rossa dei soldati della regina. L'uomo biondo si guardò attorno, non senza stupore, poi si portò di fronte a Lorenzio e si impettì. «Primo tenente di Vasci-» «Sir», disse in inglese. Guardò con disprezzo Don Lope. «L'ufficiale più alto in grado sul Seamaster, dopo che costui ha ucciso il nostro capitano». Lorenzio gli rispose nella nostra lingua: «I am Laurent de Graff. Forse avete udito parlare di me. Siete stato voi a sparare una cannonata. Approfittando del combattimento abbiamo sopraffatto gli artiglieri, sir». «Il colpo è partito accidentalmente durante la mischia». «Bene. Tenente, questa fregata è di nuovo vostra». Lorenzio ignorò il moto di scontento dei suoi uomini, che temevano di perdere il bottino. Le frasi successive li rassicurarono un poco. «Potete tenervi il vostro carico di zucchero, pretendo però tutto l'oro e il denaro contante che avete a bordo quale risarcimento delle perdite subite nel liberarvi. Ciò vi è dovuto, signore». «Allora vedo che ci intendiamo. Quindi ora vediamo di disincastrare le nostre navi». E Lorenzio si interruppe di colpo: «E chi diavolo è costui?» Si riferiva ad un civile corpulento uscito per ultimo dal boccaporto che gli si era avvicinato. Pareva orripilato dal sangue che scorreva sul ponte e dai gemiti dei feriti e dei mutilati. Malgrado il turbamento, l'uomo si tolse con rispetto il tricorno che portava in testa. Le mani gli tremavano. «Capitano de Graff, mi chiamo Diego Maquet, mercante a Port Royal. Ho viaggiato dall'Europa sul Ruby prima di passare sul Seamaster. Sono l'autore di una lettera per voi da parte di vostra moglie». «Petronila!» esclamò Lorenzio sbalordito. «Sì, signore», replicò il mercante, «Doña Petronila de Guzman». Rogero si chinò verso le bonne che gli era vicino. Non immaginavo che Lorenzio fosse sposato. «Lo è, con una dama spagnola che vive nelle isole Canarie. Di che ti meraviglia? Quasi tutti noi abbiamo moglie». Intanto il mercante aveva portato una lettera ben sigillata che teneva nel giustacuore. Lorenzio la contemplò un attimo e nervosamente la infilò nella cintura. «Chiamò Calua. Abbiamo oziato fin troppo, è ora di mettersi al lavoro». Il primo ufficiale si rivolse alle bonne: «Nostromo, vai col gesuita sul Neptune e sveglia quei poltroni dei carpentieri. Guardate cosa serve per rimettere in sesto la nostra nave». I risultati dell'esame non furono incoraggianti. I danni maggiori li aveva subiti la fregata inglese, ma nemmeno il brigantino era uscito indenne dallo speronamento. Il bonpresso era spezzato, la chiglia aveva larghe falle e imbarcava acqua. Il trinchetto, rovinato alla base, era tenuto ritto solo dagli strai di gabbie e di velaccio. C'è di peggio, non c'è il carpentiere Dixon che con il suo collega Cliquet e con il maestro Dasha Barton stava facendo quanto poteva per evitare che il Neptune colasse a picco una volta separatosi dal Seamaster. Nell'urto il gavone degli schiavi si è allagato, sono annegati tutti eccetto Bamba che ha partecipato all'arrembaggio. Le Bon lanciò a loro un'imprecazione. Non solo mettiamo le mani su un bottino ridicolo, ma stiamo perdendo anche quello che avevamo. Ora Lorenzio ci terrà per mare finché non avrà ricompensato il danno. Rogerio provò un leggero senso di pietà per i disgraziati negri chiusi in un ripostiglio asfittico e incatenati in un altro, morti come topi. Un secolo prima la chiesa ancora scomunicava chi praticava lo schiavismo, tanto che gli indiani del Nuovo Mondo erano asserviti attraverso forme contrattuali di facciate tipo la cosiddetta encomienda, per non incorrere in peccato. Ma ora i tempi erano cambiati e Siviglia era diventato il più grande mercato di carne umana d'Europa. Qualche remora però in un ex gesuita rimaneva. Il disagio di Rogerio aveva tuttavia anche un'altra oscura origine. E chi si incaricò di farla emergere fu Ravenot de Luçon, che sorvegliava il trasbordo dei feriti da una nave all'altra. «Su via, messere, non ditemi che non vi è piaciuto», sussurrò il chirurgo mentre si preparava a scendere sotto coperte per iniezare amputazioni e medicazioni. «Ma che cosa?» «Beh, ma uccidere, no?» Rogerio tacque e de Luçon gli indirizzò un sorriso complice e si allontanò. Beside me for a moment in the rain, a silhouette, a cigarette, and a gesture of disdain. I felt a dark door open, saw a sudden ghost come through. A spark leapt from my fingertip, and I knew it must be you. It's you, the man who dies every day. Up a lap on everybody's sleeve. You always play that funny pack of cards without an ace. And every street you ever walked is mapped out on your face. Cause you're the man who dies every day. You're the man who dies every day. You're the man. Sunset behind your lonely shoulder. You never showed on photographs and you never grew much older. You flicker like a shaky shadow, moving like a thief. You never drop your facade and you never seek relief. Cause you're the man who dies every day. Every day, you're the man. Occorsero 3 giorni perché il Seamaster e il Neptune tornassero in condizioni adatte a navigare e per tutto quel tempo Lorenzillo proibì che si festeggiasse la vittoria. L'equipaggio doveva impegnarsi nelle riparazioni dall'alba al tramonto e aiutare gli inglesi, troppo scarsi di numero, in quelle attività. I rapporti fra i pirati e gli uomini del tenente Westlake erano buoni, anche se i marinai del Neptune di origine britannica non volevano avere nulla a che fare con i loro compatrioti. Il loro motivo c'era. Erano disertori della marina inglese, mercantile o militare, e il ricordo di ciò che avevano patito sulle navi di Sua Maestà dopo l'arruolamento forzato restava per loro un incubo. Si tenevano lontani da tutto ciò che potesse riportarlo alla mente. Lorenzillo ebbe con Westlake a 2 riprese motivi di dissapore. La prima volta fu quando scoprì che a bordo del Seamaster non c'erano né oro né argento e che il denaro contante ammontava a 20.000 scudi e 3.500 jacobi, la moneta inglese. Si era aspettato molto di più. Inizialmente credette che il tenente volesse ingannarlo, ma poi si convinse della sua buona fede e si rassegnò. Il secondo contrasto riguardò la sorte dei prigionieri, in particolare di Don Lope Pacheco de Castro, gettato nella stima in cui avevano languito gli inglesi. «Non vedo l'ora di impiccare quel furfante», annunciò Lorenzillo. «Appena le navi saranno in ordine, penzolerà da una cima». «Sir, vi pregherei di non impiccarlo», disse il tenente. «Ah, avete ragione, è troppo poco. Meglio applicare alla canaglia la punizione che Montbar impartiva agli spagnoli. Si fa un taglio nella pancia e si estrae un lembo delle viscere che viene inchiodato a un palo. Poi si costringe il prigioniero a correre in tondo finché le budella non restano attorcigliate attorno a quel palo. Vi assicuro che è molto, ma molto divertente». Westlake impallidì. «Capitano, io vi chiedo di lasciare Lope Pacheco in vita. Voglio che sia giudicato da un tribunale inglese». Lorenzillo, incollerito, mise le mani strette a pugno sui fianchi. «Caro tenentino, un tribunale inglese! Voi dimenticate che per restituirvi la vostra fregata io ho avuto 22 morti e non so quanti feriti! E voi, capitano, con tutto il rispetto, dimenticate che chi ha sofferto di più per le malefatte di Pacheco siamo stati noi!» L'ufficiale inglese, malgrado il pallore, aveva il viso lentigginoso atteggiato a grande risolutezza. «Vi assicuro che la giustizia britannica non sarà con quel criminale più tenera di quanto lo sareste voi». Rogerio non aveva udito il resto della conversazione. La descrizione e la punizione di Montbar lo aveva costretto, dopo una breve resistenza alla nausea, a correre all'impavesata per vomitare fuori bordo. Sta di fatto che l'inglese, alla fine della controversia, l'ebbe vinta e Don Lope rimase vivo nella stiva del Seamaster in attesa del suo destino. Le prime ore di riparazione riservarono a Rogeri una sorpresa. Appena rimesso piede sul Neptune, dove l'orchestrina stava eseguendo un motivetto allegro, fu avvicinato da John Barton, il maestro d'ascia, un uomo dalle spalle larghissime e dalle mani capaci di strangolare un bue, eppure di indole bonaria, a volte quasi dolce. «Gesuita», disse Barton, «sto cercando di svuotare il gavone dove stavano gli schiavi. Vi si è aperta una falla molto grande e si è allagato». «Lo so, i negri sono morti tutti». «Lo credevo anch'io, ma una schiava sembra ancora viva». «Che vuoi dire sembra? È viva o no?» «A me pare che respiri malgrado tutta l'acqua che ha bevuto. Certo, è più di là che di qua. Vuoi venire a darle un'occhiata?» Rogerio alzò le spalle. «Ma cosa vuoi che me ne importi? Sono faccende che riguardano il dottor De Lussan, che comunque adesso ha altro da fare. Se la negra è ridotta male, gettala in mare con i cadaveri dei suoi compagni». Barton mostrava una grande titubanza. «Lo farei, ma si tratta di un caso davvero particolare. Non vorrei, se mi libero della donna, che Lorenzillo si arrabbi. Vieni a vedere e dimmi che cosa ne pensi». Rogerio, che si sentiva stanchissimo e pensava al lavoro che lo attendeva, sbuffò. «E va bene, facciamo in fretta però». Il gavone veniva svuotato a mano tramite secchi portati da uomini che salivano e scendevano la biscaglina con i segni della battaglia appena conclusa sugli abiti e sui volti. Il locale era lungi dall'essere stato svuotato, anche se lo squarcio era stato riparato alla meglio con assi, tela e catrame. Le salme ammucchiate degli schiavi, una ventina, affioravano appena. La donna, completamente nuda, era stata appoggiata al corrimano in corrispondenza degli ultimi gradini, in posizione quasi eretta, con l'acqua fin sopra le ginocchia, le braccia e la testa pendevano all'indietro, dalla bocca spalancata colava bava. Rogerio rimase colpito dalla regolarità e dalla bellezza del viso di lei. Si chiese se fosse quello il motivo che aveva indotto Barton a considerare speciale il caso, e in parte lo era. Una schiava così alla tortuga o sui spagnola potrebbe essere venduta anche per 500 scudi, spiegò il maestro d'ascia. 5 volte il prezzo di uno schiavo normale, inoltre ha buoni denti, lo si vede, ed è robusta, visto che non è ancora morta, ma vivrà. Rogerio osservò il petto della schiava. In effetti respira ancora, anche se molto debolmente. L'unico modo per darle una possibilità di sopravvivere è portarla fuori di qui e metterla in un locale asciutto. La cala dei Muzzi, allagata. No, un po' d'acqua è filtrata, però non tanta. E allora trasportala là e gettale una coperta addosso. Se il destino ha deciso che viva, vivrà. Il destino o Dio? Chiese Barton ironico. Rogerio alzò le spalle. Dio non si interessa ai negri, rispose, e tornò in coperta. Quando il Neptune fu in grado di riprendere il mare, Lorenzillo autorizzò finalmente la festa che tutti attendevano. Fu servita a prora doppia razione di rum e per cena quella che i pirati consideravano una prelibatezza, il salmigondis, un miscuglio dei cibi che una nave aveva a bordo macerati nel vino. La cambusa del Sea Master era particolarmente fornita e contribuì all'elaborazione del piatto. Finirono così in un unico intruglio carni salate di manzo e di pecora, acciughe in salamoia, pezzetti di cocco, prosciutto, lardo, olive, farina di mais, pesce fresco e altro ancora, conditi con olio e pepe. L'orchestrina cominciò a suonare il suo repertorio meno tetro e i pirati presero a ballare, ridenti e felici come bambini. Quando furono stanchi a danzare, rimase solo il negro di cucina, il colossale Bamba. Mulinava le braccia a caso, ma il movimento dei piedi era fatto di saltelli aggraziati, più di quanto la sua mole facesse supporre, e i presenti lo incitavano al grido cadenzato di «Baila, baila, Bamba! Oh, baila, Bamba!». Rogerio, che dopo una iniziale reazione di disgusto aveva cominciato ad apprezzare con moderazione, certo, il salmigondis, si rivolse al pirata che gli sedeva vicino sui pennoni di rispetto. Si trattava di Pepe Canseco. Allo spagnolo de Lussan aveva tagliato ciò che rimaneva del braccio sinistro e cauterizzato il moncherino. Malgrado il dolore inimmaginabile patito e la febbre che era seguita, Pepe era di ottimo umore. «Ma perché questo Bamba gode di tanta libertà?» gli chiese Rogerio. «Perché capisce lo spagnolo, a differenza degli altri schiavi, che fanno versi incomprensibili». Pepe posò la scodella di metallo, bevve un sorso di rum dal bicchiere che teneva tra i piedi e cominciò ad accendersi la pipa, arrangiandosi con una mano destra. «Bamba non è uno schiavo vero e proprio, è con noi fin da quando Lorenzillo de Grammont e lo scomparso Nicolas Van Horn presero Veracruz, 12 anni fa. Avrai sentito parlare di quell'impresa straordinaria». «Noi di radiazione, sì». «Sì, ma i dettagli non li conosco», disse allora Rogerio. «Avevamo rinchiuso i ricconi della città con tutta la loro servitù nella cattedrale, così fitti che parecchi morirono soffocati. Noi ogni tanto passavamo a prelevare una di quelle dame spagnole schifiltose, cariche di gioielli, e la festeggiavamo a modo nostro. Per indurre mariti e figli a dirci dove avevano nascosto le loro ricchezze, i prigionieri allora idearono un piano di fuga. Occorreva una scala molto lunga per raggiungere una balconata, poi una seconda scala più breve per arrivare a un foro che si apriva al centro della cupola. Ti ricorda nulla?» «Ma che cosa dovrebbe ricordarmi?» Pepe sorrise. «Ascolta le parole della canzone che i compagni stanno cantando per far ballare Bamba, la stessa che cantiamo quando alziamo i pennoni. Dicono che per salire servono una scala grande e una scala piccola». «La canzone si riferisce a quell'episodio?» «Sì, e riporta ciò che disse il cavaliere de Grammont quando ordinò di attaccare Veracruz per via terra. Je no soy marinero, yo soy capitán», cioè capitano dell'esercito. Tornando alla cattedrale, Bamba si trovava tra i prigionieri perché era lo schiavo di uno spagnolo molto potente che lo frustrava in continuazione. Quando i reclusi riuscirono in effetti chissà come a fabbricare due scale, una grande e una piccola, Bamba venne a dircelo e l'evasione fu sventata. Da quel momento Lorenzillo lo tenne con sé e non ha mai permesso che fosse venduto. Anche Rogerio accese la pipa. «Pepe», disse dopo il primo tiro, «hai perso un braccio e non sembri affatto dispiaciuto. Non ti lamenti, sei sempre pronto allo scherzo. Ma la ferita non ti fa male?» «Provo dolori tremendi e non è ancora passato quello della cauterizzazione», rispose lo spagnolo. «Però penso a quello che ho guadagnato grazie al mio braccio e mi consolo». «E cosa avresti guadagnato?» rispose Rogerio stupito. «Il patto d'imbarco, il chasse-partie, prevede come risarcimento, per chi resta senza braccio sinistro, 100 scudi o uno schiavo. I filibustieri al momento dell'imbarco firmano sempre patti così, con compensi per ogni tipo di mutilazione. Io avrei voluto uno schiavo, ma dato che sono tutti annegati mi accontenterò dei 100 scudi e potrò comperarne uno alla tortuga». Il pensiero di Rogerio corse alla schiava bellissima rimasta in vita. Evidentemente la notizia non era stata ancora divulgata e chissà perché provò gratitudine per il maestro Dasha Barton e la sua discrezione. L'idea che Pepe Canseco si aggiudicasse la donna lo infastidiva, o peggio, lo ripugnava. Un'esplosione di urrà e di risate interruppe il ballo di Bamba e la festa dei pirati, ormai quasi ubriachi. Era apparso Henri Duval che, con le sue braccia nerborute, portava Minou e Filou, uno per spalla, come due tappeti arrotolati. Minou piangeva e si dibatteva, Filou invece era passivo e aveva gli occhi vitrei senza espressione. «Si nascondevano i bricconcelli!» rise Duval mentre scaricava i due fardelli umani in mezzo ai compagni. «Non volevano partecipare alla festa, che ingrati! Rifiutano l'onore di essere il piatto più prelibato!» E seguirono risa squagliate. «Ma dov'è Tapì?» chiese qualcuno. «Oh, si nascondeva nella scialuppa, l'ho stordito con un pugno, più tardi lo vado a prendere!» Duval alzò una mano per calmare l'eccitazione generale. «Ora si tratta di decidere i turni da buoni fratelli della filibusta. È chiaro che per primo scendo io, che ho scovato i birbanti. Scelgo il bel Minou, chi vuole Filou?» Io, gridarono in tanti. Pepe si alzò dal pennone di rispetto e agitò la pipa. «Ne ho diritto io, che ho perso un braccio. Con questo criterio toccherebbe a Juan Lira», obiettò un pirata di nome Hans van der Laan. «Ha perduto tutti e due gli occhi». «No!» ribatté Duval. «Roland non troverebbe nemmeno il buco dove infilarlo. Vada per Pepe Canseco!» Nessuno protestò. Prima di allontanarsi, Pepe sussurrò bonario a Rogerio. «Cerca di essere tra i primi, oppure aspetta che si svegli Tapì. Dopo 5-6 passate, i marmocchi non sono più buoni». Rogerio, che sulle prime non aveva compreso cosa stesse accadendo, era rimasto attonito. Vide due mozzi sollevati di peso e trascinati sotto coperta da Duval e da Pepe, che spingeva Filou con l'unico braccio utile. I presenti applaudivano e lanciavano motti salaci. L'orchestrina aveva ripreso a suonare e Bamba a ballare. Rogerio fu riscosso dall'ottundimento in cui era caduto, fatto di disgusto, incredulità e raccapriccio, più un quid inconfessabile di eccitamento quando vide Le Bon proveniente da Puppa fargli incontro. «Gesuita, ti vogliono nel quadrato», disse il nostromo del Neptune. «Ma là è in corso la cena che Lorenzillo ha offerto agli ufficiali inglesi», obiettò Rogerio. «Sì, però il capitano mi ha detto di chiamarti ed è meglio se ti sbrighi». We'll be right back. Questi erano Wall of Voodoo con il brano Mexican Radio, dopo due letture consecutive di Tortuga di Valerio Evangelisti. Oggi manderemo per di più letture più che controinformazione, perché c'è stata la diretta venerdì scorso, quindi la controinformazione è un po' langue. E anche perché la lettura è anche controinformazione. E la lettura può essere anche controinformazione, può dare anche qualche spunto in qualche senso. A volte ci fa piacere che manca la controinformazione, perché la maggior parte delle volte si parla di sfighe, quindi gli attacchi sono molto meno rispetto alle sfighe. Ora ci leggiamo per la controinformazione un testo che arriva sempre dal Cile, Pezzo Vergara, per la guerra, per la libertà, solidarietà. Come rimanere in silenzio davanti all'arresto di Tamara Solfarias Vergara, compagna che il 21 gennaio ha attaccato una guardia di banca? Non sappiamo esattamente se l'obiettivo principale era rubare la sua pistola o vendicarsi per l'omicidio del compagno anarchico Sebastian Oversluci, avvenuto l'11 dicembre 2013 durante un esproprio in banca. La solidarietà con la compagna non può aspettare. Tuttavia, a noi interessa diffondere alcune tensioni con una voce di avvertimento sul nostro procedere anarchico in termini di violenza rivoluzionaria. Vogliamo creare una tensione significativa per la nostra lotta e la faremo tramite la fraternità e l'umiltà che ci dà la nostra esperienza, contraria all'arroganza dimostrata da alcuni gruppi di azione diretta che hanno attaccato direttamente nei loro scritti altri compagni, coprendosi sotto un falso mantello di critica fraterna, come i comunicati arroganti del gruppo autodefinitosi comandos insurrezionale, suo comandos del motin e la fuga. Quello che a noi interessa è apportare urgentemente e semplicemente quello che altri compagni hanno già detto in altre occasioni. Abbiamo discusso della necessità di migliorare la qualità delle nostre azioni, sia nel contenuto a parole che a livello tecnico operativo delle nostre operazioni armate. Perché se il nostro obiettivo è quello di alimentare un'offensiva permanente, dobbiamo capirne il peso reale di ciò che questo significa, preparando le nostre azioni in modo che i rischi sono minimi e la pianificazione è sufficientemente intelligente per allontanarsi dalla repressione piuttosto che andarle incontro. Sappiamo che la rivolta è contagiosa e riproducibile, ma questo non può essere confuso con la precarietà nella nostra pianificazione e i mezzi da utilizzare durante l'azione. È questa la tensione, benché innescata nella sua diffusione dall'arresto della compagna Tamara, va al di là del caso specifico e la trasmettiamo come un apprendimento necessario che abbiamo forgiato con tutto un cammino di errori precedenti, insieme a piccole vittorie e molta fortuna nelle nostre azioni. Siamo in guerra e questo merita una preparazione specifica che non ha nulla a che fare con la professionalizzazione di specialisti militari nell'anarchia. Siamo nemici di questi paradigmi, ma si assume come vero il fatto che nessuna offensiva può essere sostenuta nel tempo se il nostro coraggio non si confronta con le precauzioni, conoscenze, tecnica e pianificazione. Siamo guerrieri, parte di una minoranza attiva di combattenti che hanno individuato il potere e la sottomissione come causa della miseria nel mondo e ciascuno di noi è prezioso per la lotta per la libertà. Purtroppo nella nostra epoca non vi è alcuna certezza che altri compagni prenderanno il nostro posto. Siamo noi stessi la continuità storica di ciò che tanto parliamo. Per questo dobbiamo unire il coraggio alla cautela. Questo ci può portare a rimandare alcuni colpi diretti contro il potere, portando ad attaccare obiettivi più semplici con mezzi più sicuri, mentre in parallelo ci prepariamo a minimizzare i rischi in proiezione di operazioni armate più complesse, dotandoci di mezzi e conoscenze necessarie. Tutto questo senza dimenticare che l'azione e le parole devono svilupparsi e affinarsi con lo stesso ritmo e mai uno più avanti rispetto all'altro, chiarendo le nostre azioni con noi stessi e i nostri compagni e comprendere le conseguenze delle nostre azioni e il loro contenuto di guerra. Circa l'arresto della compagna Tamara, la chiamata e l'invito è chiaro: solidarietà e azione, attaccando il silenzio, le critiche e i mormorii che rimangono voci di corridoio senza una risposta di fondo. Solidarietà per moltiplicare la lotta, azione per dar forza alla compagna e a quelli che verranno, ma fare autocritica delle nostre azioni per evitare che altri compagni cadano prigionieri o morti, per tappare la bocca alle risate del nemico e le critiche da salotto. E per estirpare dal nostro ambiente posizioni semplicistiche che glorificano la violenza come un fiore o un feticcio. Siamo anarchici che abbracciano metodi violenti nella lotta come una forma di propaganda, di vendetta e solidarietà come strategia per alimentare la lotta per la libertà. Noi in particolare abbiamo deciso di contribuire all'attività armata contro il potere, ma non dimentichiamo che la lotta per la libertà si estende in molti terreni e con molteplici mezzi, come altri compagni hanno fatto in Cile e altrove. Come gli insorti che attaccano il potere attraverso la violenza minoritaria anarchica, apprezziamo l'audacia della compagna Tamara, ma senza smettere di abbordare la necessaria tensione delle nostre azioni. Al contrario, possiamo solo diffondere questa tensione senza fare una chiamata alla solidarietà militante come mezzo efficace per aumentare il morale dei nostri compagni imprigionati e come parte della continuità della guerra sociale contro il sequestro dei compagni di lotta. Perché la compagna Tamara ha avuto il coraggio di fare qualcosa di necessario, colpo su colpo. Anche un'altra testa e un altro colpo attendono i proiettili di piombo vendicatori, riferendosi alla guardia che ha ucciso il compagno Sebastian Overslucci. Non dimentichiamo che, come mostra il video dell'azione ripreso dalle telecamere della banca e diffuso dalla stampa, il compagno Sebastian Overslucci è stato ucciso davanti agli occhi di uno dei suoi compagni, testimone di come il compagno Sebastian è stato ammazzato e di essere in grado di fare qualcosa, essendo armato, per impedire la morte del compagno, o almeno per vendicarlo. Non pensò ad altro che nascondere la testa e sicciare il pavimento, proteggendo se stesso e lasciando il compagno alla mercé dei proiettili nemici. Alla fine della giornata i conti non sono chiari. L'immagine di una compagna che entra in una banca, attaccando una guardia sparandogli con una pistola, che espropria la pistola che egli portava per difendere il capitale finanziario, che grida vendetta, e successivamente arrestata e imprigionata nello stesso carcere di San Michele, dove 81 prigionieri sono lasciati morire nel fuoco dell'8 dicembre 2010. Con questo negli occhi, la solidarietà non può aspettare. Solidarietà e forza per la compagna Tamara Sol Farias Vergara. Solidarietà e rispetto per la famiglia Vergara Toledo. Con organizzazione apriamo le vie per l'insurrezione anarchista della Internazionale Negra, Cile, gennaio 2014. E questo era il testo scritto dai compagni che si firmano come anarchista della Internazionale Negra in Cile, rispetto in solidarietà sia con Tamara, e anche aprendo una critica rispetto al fatto che Sebastian è stato ammazzato sotto i colpi del fuoco nemico, mentre un altro compagno era in banca, era là a fianco, come si è visto anche dal video, e non ha fatto niente per almeno per vendicare il compagno che era colpito, cioè sono stati sparati tipo 9 proiettili contro Sebastian, questo compagno che accompagnava Sebastian durante la rapina, non ha fatto altro che mettersi a terra e evitare di essere colpito. Queste sono poi valutazione di chi firma il testo, noi non entriamo nel caso, perché comunque ogni momento va valutato sul momento e non a posteriori. Il fatto che entrare in banca in due o in tre e che uno viene colpito e gli altri cercano un attimo di ripararsi il culo, diciamo, di capire che cazzo sta succedendo, non lo sappiamo, non è, almeno per me non è un fatto di colpa, non va ad incolpare quei compagni che comunque non hanno reagito in quella sparatoria. Comunque vabbè, noi l'abbiamo letto comunque, l'abbiamo pubblicato comunque, perché comunque ne valeva la pena. Ora ci ascoltiamo un brano dei Dance or Die, Psycho Barbia, e poi dopo si torna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Pull back up, Terry, please. describe what happened on trip number 23? La saletta del quadrato che ospitava la mensa ufficiali era stata addobbata da Lorenzillo in modo da suggerire un'idea di eleganza. Una tenda di velluto rosso, sottratta a qualche villa patrizia durante un'incursione di terra, celava i finestroni che davano sul giardinetto, la stretta balconata poppiera del Neptune. Sul tavolo, coperto da una tovaglia ricamata e con al centro un ampio candelabro d'oro, figuravano stoviglie posate, saliere e coppe d'argento, nonché bottiglie polverose di vino e vassoi colmi di frutta. Chi serviva era il cuoco in persona, Auguste Lebras, costretto a indossare una sorta di livrea. Non fosse stato per le misure ridotte dell'abitacolo e per il monotono rollare della nave, ci sarebbe detti nella sala da pranzo di un grande di Spagna, solo un po' decaduto. Quando vide entrare Rogerio, accompagnato dalle buone, Lorenzillo, con il viso arrossato per le libagioni, si rivolse in inglese ai commensali. «Signori, permettetemi di presentarvi un uomo prezioso, Rogerio de Campos, ex gesuita portoghese e futuro nostromo del mio grande amico, il Cavaliere de Grammont». La qualifica di gesuita parve essere accolta bene da alcuni degli ospiti. Se De Lussan si limitò a sorridere, Nathiel Westlake rivolse al nuovo arrivato un freddo cenno di saluto. Gli altri inglesi presenti si irrigidirono. L'unica sembianza di cordialità fu nell'inchino di Diego Maquet, il mercante. Lorenzillo non prestò minima attenzione all'atteggiamento dei commensali, additò le bonne e a Rogerio le due sedie attorno al tavolo, rimaste libere. Poi guardò il portoghese. «Gesuita, io, comandante, sono stato ingiusto con te. Le tue preghiere hanno funzionato di nuovo. Un po' di merce è passata dalle nostre stive». «Anche se pochissima», e fissò gli inglesi con severità, «devi solo pregare di più. Chi diavolo è il Papa adesso?» Rogerio non lo sapeva proprio, fu Maquet a rispondere. «Si chiama Innocenzo XI, o almeno c'era lui quando sono partito dalla Spagna. Oh, ma guarda! Lo stesso Papa che ricordavo io, devono essere diventati più longevi», rise Lorenzillo. «Gesuiti, segnati il nome. Che c'è, De Lussan?» Il chirurgo che si agitava sulla sedia rispose. «Papa Innocenzo, mio capitano, ha intimato al nostro re, Luigi XIV, di essere indulgente con gli ugonotti, quantomeno di non ucciderli o emarginarli dalle professioni liberali come si è fatto in Francia finora. Ebbene, ciò vi scandalizza, abbiamo tantissimi seguaci di Lutero nei nostri ranghi». De Lussan alzò il mento nella consueta esibizione di cinismo. «È proprio questo il punto. Alla tortuga correranno meno uomini e soprattutto avremo meno chirurghi capaci. Quasi tutti quelli che contiamo erano stati allontanati in patria dalla chirurgia perché ugonotti». «Ah, voi no però», osservò Lorenzillo con una sfumatura di malizia. «Eh no. Io sono scappato dalla Francia per debiti», ammise De Lussan con disinvoltura. «E non ero nemmeno un medico, come sapete». «Lo sono diventato grazie al dottor Exquemeling, il chirurgo di De Grammont». «Sì, ma anche grazie al fatto che mi piace tagliuzzare la gente e sentirla urlare, una passione che, in fondo, abbiamo in comune, mio capitano». Lorenzillo scoppiò a ridere tanto forte che dovette spegnere l'ilarità in una coppa di vino. I suoi ospiti non apparivano ugualmente divertiti. Alcuni tra loro deglutirono. Chi stava a fianco a De Lussan si ritrasse involontariamente. Rogerio non seguiva il dialogo, pensava a tutt'altro. Lorenzillo, malgrado le volgarità occasionali, come le risa troppo fragorose, aveva la gestualità di un gentiluomo di antico casato. Se davvero era stato un servo, dai padroni doveva aver appreso parecchio. Lo si vedeva da come maneggiava la forchetta e si portava il tovagliolo alle labbra dopo quasi ogni boccone. Rogerio si chiese se quell'uomo in fondo fine fosse al corrente di ciò che in quello stesso momento stava accadendo ai Muzzi. Ma una seconda domanda si sovrappose alla prima, irresistibile. Lorenzio era stato informato del fatto che una schiava era rimasta in vita? Il portoghese quasi lo auspicava. Gian, che per sua stessa ammissione godeva delle sofferenze altrui, gli metteva i brividi e non riusciva a spiegarsi quei sentimenti. Si trattava di una negra, bella sì, però nei limiti della sua razza. Lui provava però un bisogno incoercibile di rivederla, e se lo spiego con un generico senso di umanità. Fu distolto da quelle fantasie da Lorenzio che si rivolgeva direttamente a lui. «Gesuita, ti ho fatto venire perché il qui presente mercante Diego Maché, a dispetto del nome, è di nazionalità portoghese. Parla il francese, lo spagnolo e l'inglese, però malissimo, e ho bisogno di un traduttore. Ai vostri ordini, capitano». La lettera di mia moglie Petronilla che mi ha recapitato dice che il re di Spagna mi concederà la grazia se mi sottometterò e combatterò per lui. Chiedi al signor Maché in portoghese se mia moglie gli sembrava in buone condizioni di salute e pienamente padrona della sua mente. Rogerio seguì, poi riferì la risposta. Non vi sono dubbi su questo. Doña Petronilla parlava in piena libertà, solo circondata da tutti i suoi familiari. Lorenzio allora parve meditare e infine chiese: ci sarà un'espressione portoghese analoga allo spagnolo vete alla mierda e in inglese fuck you? C'è, mio capitano. Ebbene, se il signor Maché incontra di nuovo la mia signora, gliela riferisca. Westlake approfittò di quella crisi nei rapporti tra filibusta e Spagna, del resto ancestrale. Captain de Graff, se mi faccio mediatore, posso acquistarvi io il perdono di re Carlo II d'Asburgo, sovrano degli spagnoli. Basta che chiediate la cittadinanza inglese e comperiate. Buona piantagione in Giamaica. Fosse anche piccolissima, da quel momento vivreste libero e tranquillo. Lorenzio, ormai quasi ubriaco, levò una coppa di nuovo riempita in direzione di Delusson. Bella prospettiva, non è vero? Da avventuriero a contadino sotto la bandiera dell'Inghilterra, tipo quel Jean Foutre di Henry Morgan. Che ne pensate, amico mio? Delusson alzò a sua volta il bicchiere. Io credo che siamo totalmente d'accordo, mio capitano. Vivere poco, ma bene, e morire combattendo. Francamente, non vi vedo come coltivatore di legumi e di tabacco, e nemmeno io. Lorenzio sputò al suolo, poi disse agli inglesi: l'offerta è respinta. Voi ci credete semplici mercenari. In realtà abbiamo aderito ad uno stile di vita governato dal basso. Su una delle vostre navi passerei il mio tempo a lavare la coperta. No, grazie, thank you. Alla tortuga si gioca, si beve e si gode. Lo stesso a Port Royal, solo un pazzo tornerebbe alla società inglese o alla caricatura che ne hanno fatto in questi mari. Westlake tentò un'ultima obiezione. Ma io vi sto proponendo una speranza concreta, capitano de Graff. Rendite, schiavi. Vi state battendo per questo? Niente affatto, rispose Lorenzio piccato. Mi batto per il contrario. Soldi da spendere subito, morte dietro l'angolo, gustare tutti i piaceri della vita. Io non so come cadrò, però avrò di sicuro la sciabola in mano. Dico bene, Delusson? Dite benissimo, mio capitano. Ecco, lo conferma anche uno scienziato. Ma cos'è questo profumo? Ah, ora capisco. Arrivano gli arrosti. Il grosso Auguste Lebrun stava in effetti entrando con un vassoio che reggeva con entrambe le mani. Lo posò sul tavolo e alzò il coperchio. Intingoli e spezie coprivano fette di carne, probabilmente di porco e di bue selvatico. Provenivano senz'altro dalla gambusa del Seamaster, e quella del Neptune era molto più sguarnita. Lorenzio impugnò un coltello e fece un gesto cortese. Gli ospiti si servono per prime, anche voi, signor Maché. Auguste, porta due piatti per le bonne gesuita, più le posate e un paio di bicchieri. Mentre il cuoco eseguiva, il pirata lanciò a Westlake uno sguardo malizioso. «Tenente, avete mai sentito parlare di un avventuriero leggendario soprannominato Rock Brasileiro?» «No, mai.» «Ah, eravate troppo giovane, lo ero anch'io. Beh, il famoso Rock combinò a un gruppo di spagnoli catturati a Campeche un bello scherzo. Ne fece arrostire la metà in un forno di cosparse di sughetti, quindi obbligò i loro compagni a mangiarli.» Westlake, che stava prendendo dal vassoio una porzione di carne, ebbe un moto di disgusto e lasciò cadere la forchetta. Anche gli altri inglesi non nascosero la loro ripugnanza. Rogerio, invece, restò indifferente. Era perduto nei propri pensieri e poi si era accorto da tempo che Lorenzillo si divertiva a scandalizzare i sudditi britannici con aneddoti raccapriccianti, peraltro rigorosamente veri. E anche questa volta il capitano scoppia a ridere, imitato da Deluzzando. Oh, su, via, non fate quella faccia. Tenente Westlake, non vi ho cotto degli spagnoli. E si versò altro vino e sollevò la coppa come per fare un altro brindisi. Ciò che vi ho raccontato è solo per dimostrare che nella filibusta si fa ciò che si vuole e non si obbedisce ad alcuna legge. Non è vero, dottore? Deluzzando annuì. Ah, la tortuga, ognuno segue la propria natura, a volte amichevole, a volte feroce. Westlake reagì con aggressività eccessiva, appena temperata dal parlare garbato, a quella che forse ritenne una burla. Capitano, la vostra società ideale sta per finire. Il signor Maché ha portato all'Europa altre notizie a parte di quelle di vostra moglie. Notizie politiche? Ah sì? E quali sarebbero? Lorenzillo aggrottò le sopracciglia. Gesuita, chiedi al tuo connazionale le novità. Un attimo dopo Rogerio tradusse la risposta del mercante. La Francia è di nuovo in guerra con la Spagna. Annuncio tutt'altro che cattivo, commentò Lorenzillo. Ma Re Luigi ha deciso che la pirateria non è un atto bellico decente e ha mandato alcune fregate al comando del signor de Chiussy ad assumere il governorato della tortuga per smantellarla una volta e per sempre. Vi fu un silenzio prolungato, interrotto quando Lorenzillo scagliò il coltello che aveva in mano contro la parete in cui si infisse. Mordier! Imprecò. Era la prima volta che Rogerio lo udiva bestemmiare altri che il diavolo. Noi ce ne stiamo qui a gavazzare con questi maricones d'inglesi mentre a casa nostra è minacciata. Si alzò di scatto tanto che rovesciò il vino e il vassoio degli arrosti. Tutti fuori, rotta sulla tortuga! Ma non sappiamo la posizione, mio capitano, obiettò Calois. Ce la insegnerà Satana! Che la masnada di ubriaconi qui fuori si mette a lavoro, voglio le vere spiegate, anche se è notte. Come si chiama quel damerino? La domanda era rivolta a Westlake, che cercava di pulire con un tovagliolo il vino che gli aveva macchiato l'uniforme. Chi? Domandò l'inglese smarrito. L'impostore che pretende di essere il nuovo governatore della tortuga. Si chiama De QC. Ah, dobbiamo arrivare prima di lui. Meglio ancora intercettarlo e colarlo a picco. Ma il re di Francia? Ma il re che conta? Il re ha accettato tante volte il fatto compiuto e lo accetterà una volta ancora. Breiten wir uns aus. Von Stadt zu Stadt, reich und arm, werden zugleich das Paradies erleben. Jeden Augenblick ihres Lebens. Yeah. Allora, abbiamo saputo che praticamente la radio era giù già da circa 5 minuti, quindi penso che vi siete persi l'ultima cosa di controinformazione che era stata detta riguardo ad una smentita da parte dei compagni di Controinfo riguardo alla notizia della morte e la violenza subita da parte di una compagna in Messico, che non è altro che un'infamia fatta girare da Blog Anarco Oriente su Facebook. La notizia era apparsa su più siti e blog e quindi era stata data per buona, anche se non vedendo apparire su siti di compagni sudamericani il dubbio era venuto. Non a caso durante la diretta d'azione venerdì 24 gennaio era stato sollevato il dubbio e chiesto espressamente se qualcuno ne sapesse qualcosa di certo. Per finire, qui non si è frequentatori di social network, e prima di dare dei blogger a tutti quelli che si fanno il mazzo così per ragionare contro informazione ogni giorno, contate fino a 3 prima di dire vocali. Questo lo ripetiamo perché era saltata la connessione, perché praticamente sul testo apparso su Controinfo si va un po' giù pesantemente su chi aveva messo la notizia riguardo alla violenza e alla morte della compagna. La reazione era stata informata da parte di alcuni compagni che fanno parte della sezione di serbo-croata di Controinfo, però nello stesso tempo la notizia era già girata su alcuni siti e blog, quindi si è preferita lasciarla lì dove era fino a quando non è avvenuta la conferma. A noi Facebook non interessa, come non interessa a tutti i social network, quindi ripeto ancora una volta, per chi contate fino a 3 prima di arrivare a delle conclusioni un po' di merda, anche perché qua tra traduzioni e aggiornare contro informazioni si fa veramente un mazzo così. Ora ci ascoltiamo un brano proprio per chi ha pubblicato questo testo, Think Tonight dei Futurez, e poi dopo si passa all'ultimo capitolo di Tortuga di Valerio Evangelisti. I get to see your smile. I can't admit it. Raggiungere il regno della filibusta non sarebbe stato così facile, ma Rogerio non lo sapeva ancora. Ne ebbe però il presentimento appena mise il piede in coperta. Il mare era grosso. Il vento soffiava forte. Le luci lampeggiavano. I pirati, barcollanti per l'ubriachezza, uscivano a sciami sul ponte. Getti d'acqua potenti scaturivano dalle cubie. «Una bufera in arrivo», disse Calloa, pagato come sempre. «Questa volta dobbiamo evitarla. Spiegare le gabbie!» gridò con quanta forza aveva in gola. «Bordare le scotte, distenderle, su, forza! O saremo schiacciati come scarafaggi!» Gli uomini scordarono l'ebbrezza e in un baleno sciolsero i terzaruoli. I ceri che brillavano nelle lanterne del nebbione illuminarono un formicolio di corpi. Tra essi, Rogerio poté distinguere quelli nudi dei mozzi usciti piangenti dal boccaporto di prora. Correvano qui e là senza sapere dove andare. Qualcuno perdeva sangue. Rogerio sapeva che il momento non era il migliore e tuttavia strinse l'avambraccio di Le Bon, che gli era al fianco e fremeva all'idea di entrare in azione. «Quei ragazzini!» disse emozionato. L'altro lo fissò con fastidio. «Ebbene, ebbene, che c'è?» «Sono stati costretti a subire. Non oso nemmeno dirlo.» Le Bon alzò le spalle. «Nella marina regolare strappano i mozzi dai brefotrofi e ne fanno i naviganti a colpi di frusta. Tra i fratelli della costa i mozzi sono le femmine di bordo, lo sanno tutti, anche loro.» «Ma non sono per nulla consenzienti.» Che non si aspettavano che i clienti fossero così numerosi. Accade quando ci mancano le schiave negre, lascia perdere. Adesso abbiamo altro a cui pensare.» A conferma Calloa fu loro addosso. «Bene, bene, due nostromi, uno vero e uno futuro, immersi in piacevoli conversazioni. Ho dovuto aggiungere di persona la vela di trinchetto. Ora si tratterebbe di terza rolare la contromezzana. Posso chiedervi di occuparvene o avete altro da fare?» Rogerio e Le Bon scattarono. Poco dopo il portoghese, a cavalcioni del pennone, poteva gridare trionfante: «Borda sottovento!» Tutto il Neptune, che fino a quel momento aveva navigato di bolina, obbedì e scivolò fuori dalla tempesta incombente. La notte tornò tranquilla, il mare calmo, finché una delle vedette, scesa dalla coffa, si portò di fronte al lorenziglio che stava a braccia incrociate di fianco al timoniere. «Capitano, credo che un uomo si sia gettato in mare.» «E chi sarebbe?» «Minù, uno dei mozzi, non riesco a vederlo, però ho sentito delle grida, sta per annegare.» Lorenzio fece spallucce. «Abbiamo altri mozzi, no?» «Sì, altri due.» «Beh, bastano per l'equipaggio, è inutile perdere tempo.» Sbadigliò. «Si è fatto tardi, è ora che io vada a dormire.» Del suicidio non si parlò per nulla nei giorni successivi. Rogerio apprese solo, con dispiacere, di esserne stato in parte responsabile. I tre mozzi si barricavano la notte per sottrarsi alle violenze dei pirati nella cala di prua adiacente al gavone dei negri, lo stesso sgabuzzino in cui lui aveva fatto sistemare la schiava sopravvissuta. Estromessi dal loro rifugio, i ragazzini erano stati costretti a cercare altri nascondigli, senza successo. Così la ciurma aveva potuto sfogare su di loro le intenzioni coltivate fin dall'imbarco, appena l'alcol le aveva scatenate. I pensieri ricorrenti di Rogerio andavano alla prigioniera. Non ne aveva notizie e non osava chiederne. Quel silenzio, per qualche oscura ragione, lo angosciava. L'equipaggio, a parte il maestro Dasha, ignorava che la ragazza fosse in vita. Ne erano al corrente senza dubbio il capitano De Lussan e forse Calloa, e nessuno dei tre ne faceva cenno. Chi spiegò le ragioni di quel silenzio fu finalmente, tre giorni dopo la festa, De Lussan in persona, in una delle sue rarissime apparizioni sul ponte. Era uscito a salutare il Sea Master, che si allontanava diretto in Giamaica dopo una notte stellata e chiara aveva permesso di determinare la latitudine con sufficiente esattezza. La fregata recava tutti i segni delle sue traversie e tuttavia teneva il mare con eleganza. aveva nuovamente innalzato festosa la bandiera inglese all'altezza del contropicco. «Ricordate la schiava trovata ancora viva da voi e da John Barton?» chiese il chirurgo a Rogerio. Entrambi tenevano i gomiti sull'impavesata. «Sì, certo», rispose il portoghese e si sforzò di non palesare quanto la questione gli stesse a cuore. «Ebbene, lentamente è guarita. Penso che il merito sia dell'aloe vera che cresce in ogni angolo della tortuga. Ne ha una scorta abbondante del suo succo. È particolarmente adatta quando, in un malato, prevalgono gli umori flemmatici, mentre è quasi inefficace con i biliosi.» Rogerio si finse indifferente. «Ne sono contento, ma l'equipaggio sa che è viva? Ho idea di no.» «Non lo sa per decisione di Lorenzio. È una donna bellissima per essere della sua razza e non vuole cederla a un mutilato qualsiasi perché potrebbe ricavarne almeno 200 pezzi da 8, vale a dire 1600 reales spagnoli oppure 200 scudi francesi, il doppio del prezzo di uno schiavo ordinario. Beh, non è una grande somma per Lorenzio.» «No, in effetti non lo è. Io credo che voglia regalare la schiava al cavaliere de Grammont, che ha una vera passione per le femmine, nere o bianche che siano.» Qualcosa dovette alterarsi sul viso di Rogerio, perché il chirurgo lo fissò. «E che vi succede, amico mio? Non starete maturando una passioncella per quella specie di scimmietta?» «Ma no, che dite?» La reazione di Rogerio fu di scandalo. «Mi credete impazzito?» Gli occhi del chirurgo sfavillarono di malizia. «Oh no, scusatemi tanto, mi sono espresso male. Comunque, se voleste andare a trovarla, rivolgetevi al maestro d'ascia. È l'unico autorizzato a scendere laggiù.» Non era così facile. Dopo che ebbero lasciato al suo destino il Sea Master, tra John Barton e Lorenzio fu un battibecco continuo. Il maestro d'ascia, appoggiato dai carpentieri, sosteneva che il Neptune andava carenato. Aveva patito troppi colpi, il suo scafo era tutto rappezzato. Nuove falle potevano aprirsi da un momento all'altro e una di esse risultargli fatale. Inoltre, troppi molluschi si erano incrostati nella carena e scavavano pazienti le loro gallerie nel legname. Lorenzio non ne voleva sapere e insisteva per far rotta immediata sulla tortuga. Se fosse stato su una nave spagnola o inglese, avrebbe prevalso con un semplice comando. Su un brigantino dei Fratelli della Costa, no. Bisognava discutere. Alla fine, l'opinione di Barton ebbe la meglio. Dato che erano probabilmente vicini a la Isla de los Pinos, a sud di Cuba, il brigantino sarebbe stato carenato laggiù, il che significava trascinarlo a riva e rovesciarlo su un fianco, poi aspettare che il maestro d'ascia e i carpentieri ne avessero riparato lo scafo, catramandolo e strappando i molluschi dai loro nidi. Prima che raggiungessero lo Spinos, Rogerio trovò finalmente l'occasione di parlare a Barton al riparo da orecchie indiscrete. Fu mentre in una notte piena di stelle, Rogerio era accoccolato di fianco al timoniere e sostituiva l'ufficiale di guardia Philippe Calloa, impegnato nella cena. Come la tradizione, anche Rogerio mangiava. La regola voleva che nel quadrato di poppa il capitano in persona tagliasse le fette di carne più succulente e le destinasse al nostromo. Di norma era un mozzo che portava le razioni, ma quella volta fu Barton. «Voglio vedere la schiava», disse Rogerio senza mezzi termini. «La princessa! Io la chiamo così, Lorenzio ha ordinato che non sia avvicinata da nessuno. Non vale né per me né per te che l'abbiamo salvata. L'intento del capitano è tenerla alla larga della ciurma. Con noi non corre nessun pericolo.» Il maestro d'ascia parve riflettere e poi disse: «Mi hai convinto, gesuita. Finisci di mangiare e seguimi. Oh, vengo subito.» Rogerio depose la scodella di stagno e si alzò. «Non ho molta fame stanotte.» Barton andò a procurarsi una candela. Quando tornò, guidò Rogerio lungo i terrozzi ripidi della biscaglina del boccaporto di prua, tra l'albero di maestra e quello di mezzana. La cala in cui avevano trovato rifugio i mozzi finché avevano potuto era umidissima. Un nugolo di scarafaggi si disperse al passo dei visitatori. La schiava, ancora nuda, era distesa su un pagliericcio molto largo. Non pativa il freddo, data la temperatura esterna, e tuttavia tremava. spalancò gli occhi, intimorita. L'atmosfera era irrespirabile a causa del mucchietto di escrementi accumulati in un angolo. Al suolo, l'urina passava di solco in solco a ogni rollio del brigantino. «Cosa le date da mangiare?» chiese Rogerio con voce aspra. «Avanzi, quello che capita!» «Ho lasciato la mia pietanza nella scodella, portala qua!» Barton, che aveva infisso la candela in un supporto della parete, sollevò un sopracciglio. «È cibo che viene dal quadrato ufficiali, forse andrebbe chiesto il permesso a Lorenzini oppure a Calloa. Portami la scodella, ti ho detto!» Uscito il maestro d'ascia, Rogerio sedette su un orlo del giaciglio. La giovane donna teneva la testa bassa e si rannicchiava come se temesse chissà quale violenza. Il portoghese l'afferrò per il mento e le sollevò il viso. Ancora una volta rimase incantato dalla delicatezza di quei tratti, malgrado il suo naso largo e le labbra prominenti. Solo gli occhi, scurissimi, dimostravano una paura folle. «Non temere», disse Rogerio. «Sono quello che ti ha salvata. Come ti chiami?» Non vi fu risposta. Le pupille della giovane contenevano solo terrore allo stato puro. Rogerio allora le parlò con dolcezza. «La tua paura è ingiustificata, piccolina. Nessuno vuole farti del male. Tra poco avrai anche tutto il cibo che ti occorre.» Un batter di stivali sui terrozzi annunciò il ritorno di Barton e il maestro d'ascia recava una scodella. «Ti vogliono sul ponte, gesuita!» Rogerio fu pronto ad alzarsi. «Cosa succede?» «Ma niente di speciale. La isla dello Spigno si è in vista. Tra breve si approda.» Rogerio allora passò le dita sul viso della schiava. «Stai tranquilla. Porta pazienza. Ci rivedremo presto. Hasta luego.» Ecco, oggi finisce qui la diretta d'azione. Abbiamo avuto un po' di problemi sulla connessione, la connessione da cui si trasmette, e non sul server come capitava altre volte. Lo ricordo, altre volte moriva proprio il server, questa volta fortunatamente è solo un fatto di connessione, evidentemente. Forse sarà dovuto al maltempo oppure stanno scogitando altre strade. Allora, ripeto, oggi finisce qui la diretta d'azione. Ricordiamo gli indirizzi utili per radioazione @distici.org per chi vuole mandare mail, comunicati, scritti, giornali online, tutto quello che può essere pubblicato su un blog via web. Altrimenti è il blog dove potete leggervi la controinformazione aggiornata quotidianamente, è radioazione.noblogs.org per il momento, perché ci sono novità e queste novità le saprete a breve, nei prossimi giorni. Per la radio oramai lo sapete, basta cliccare sul banner che trovate in home page sul blog di radioazione. Il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 19 e ascoltate la diretta d'azione. L'appuntamento ora è per venerdì 31 gennaio con la diretta d'azione con solo controinformazione e musica, diretta che è tornata già venerdì scorso dopo un mese di pausa. Da ora quindi si è tornato tutto normale, tutto ok, quindi le dirette tornano due, lunedì e venerdì, 17 e 19. Vi lascio con un brano di Nina Hagen, My Way, e ciao. Chi si offende è un fedele. That's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Radio Azione, punto blogs, punto